La signora Giampiccola era un po' preoccupata perché, visto il tempo, la pioggia imminente o neve, non sappiamo. Insomma. Mi ha detto, ma non verrà nessuno perché. Queste condizioni ambientali non favoriscono le uscite, invece la sala è piena. E quindi ancora una volta Alba Giampiccola è riuscita a riempire una biblioteca, il che non è poco, è già un punto a suo favore. Ed è riuscita a pubblicare un libro, non è il primo, è l'ultimo e non l'ultimo in assoluto, penso che ce ne saranno degli altri, comunque è già il sesto, mi suggeriva, di una serie, ricordo racconti quotidiani, memoria vagabonda, tornado e via dicendo. Che dire, la conoscete tutti, è una persona che si nota subito perché ha un suo fascino, un suo charme, questo non possiamo negarlo, la invidiamo nel senso più buono del termine, perché è grande, no? Età, possiamo dirlo, e comunque va, gira ed è protagonista della sua vita da sempre. Quindi è un'ottima lezione per tanti di noi che magari nel quotidiano si lasciano un po' prendere da tutta una serie di affanni e non godono il momento che passa, insomma, no? Che arriva e che ci sfugge per le mani. E infatti Alba nei suoi libri, nelle sue memorie, l'abbiamo contattata ancora nel 2005-2004, non so, insomma, eravamo all'inizio di questo avvio della biblioteca, sì, e perché ci interessava come persona testimone di una vita cittadina, insomma, di una città come Bolzano, con tanti aspetti, con tante storie, e Alba è una di queste. Mi permetto di chiamarla Alba. Certo, anzi mi sento più la confidenza, famiglia. Grazie. Gli scambi che ci sono stati, grazie, in questi anni, e con piacere abbiamo sempre così creato delle occasioni per incontrarla, per farla incontrare con il pubblico che la segue da anni. È un personaggio poliedrico perché si cimenta e ha fatto anche delle mostre di quadri, non disdegna la poesia, i racconti, ha viaggiato molto, quindi insomma cerca sempre di cogliere vari aspetti e vari stimoli che la vita le offre. Siamo contenti di averla qui, questa, grazie, sera parleremo di emozioni itineranti, come più volte mi ha appunto raccontato, si tratta di memorie, di frammenti, di flash, di viaggi, di numerosi viaggi che ha fatto in compagnia soprattutto della sorella Pia, e quindi ascolteremo dalla sua voce, con la prefazione di Eugen Galasso che sempre accompagna con le presentazioni della signora Giampiccolo, e questa volta avremo con noi di nuovo, anzi penso, sì, no? Maria Pia Zanetti, che darà voce e lettura a queste pagine molto belle. Grazie a tutti voi. Consegniamo sempre un foglietto per iscriversi alla biblioteca. Questo perché? Perché questo è un ente pubblico, è un servizio pubblico pagato con le tasse di tutti noi, e quindi questi sono momenti preziosi dove la biblioteca e chi ci lavora riesce a fare pubblicità, tra virgolette, di quelli che sono i servizi che vengono erogati gratuitamente. Quindi chiediamo semplicemente, se avete voglia, non è obbligatorio, di compilare il modulo che viene lasciato sulla sedia o consegnato, in maniera tale che noi possiamo stabilire un contatto con voi, mandarvi le cartoline o le mail o gli sms, come preferite, e segnalarvi un libro, un'iniziativa, un corso di iPad, iPhone, smartphone. Adesso stiamo facendo il mercoledì e il venerdì pomeriggio dei corsi per imparare ad usare questi strumenti con la collaborazione di un nostro bibliotecario, di Fabio. Quindi se avete piacere di frequentare questa biblioteca, di conoscere le varie attività che facciamo, gratis per tutti quanti, ecco, l'unica maniera per raggiungervi è quello di avere un vostro indirizzo. Grazie. Grazie. Allora, io ringrazio molto il pubblico che ha preso questo tempo per venire ad ascoltare questi miei flash di viaggio. Sono piccoli flash di viaggio. Sì, non ho scritto un libro letterario, proprio dei flash, ecco, dei miei viaggi, ciò che mi ha colpito maggiormente. E sono dei ricordi, più che altro l'ho dedicato a mia sorella, perché ho fatto quasi tutti i viaggi con lei e mi manca molto. Comunque è la vita, ecco. Ringrazio Valeria per la bellissima presentazione e ancora un ringraziamento a questo meraviglioso pubblico, e allora adesso cominciamo. Grazie, grazie. Nascendo parti. Preferisco il microfono. Nascendo parti. Il viaggio inevitabile. Stazioni vicine, lontane. Le fermate, le corse, riparti, viaggiare. Meravigliose angosce. Triste percorso. Fermata riposante. Nascendo parti, presto o tardi arrivi. Quando? Dove? Arrivi, ti fermi e attendi. Parlo spesso in prima persona, ma a torto, poiché i viaggi li ho effettuati e apprezzati sempre in compagnia della mia cara sorella Pia. La prima uscita, il viaggio in Thailandia, ex Siam, era l'anno 1986. Certo, fu una grande sorpresa, poiché tutto il sistema di vita è completamente diverso. Cultura, alimentazione, religione, tutto una sorpresa. I templi buddisti non me li posso scordare certamente, affascinanti e misteriosi nella fede. Mi è rimasto poi impresso un simpatico ricordo. Per il rientro in Italia ci fu un ritardo di 7 ore. Mentre con mia sorella ci riposavamo su delle sdraio, un gentile thailandese, aiutato da un ragazzo, ci regalò 2 enormi caschi di banane. Al tempo in Italia le banane erano molto costose e non si trovavano con facilità, così decidemmo di portarne uno a nostra madre, mentre l'altro lo distribuimmo ai nostri compagni di viaggio. Che contento. Bangkok. In thailandese Krung Thep Maha Nakhon. È la capitale e la più grande città della Thailandia, situata lungo il fiume Khao Phraya, nei pressi del Golfo della Thailandia. Il nome thailandese significa città degli angeli. Il traffico incessante sulle strade, i grattacieli degli hotel, dei centri commerciali e degli uffici sono affiancati dalla silenziosa e religiosa maestosità dei templi buddisti. Dai piccoli e oscuri negozi di antiquariato, dalle bancarelle di cibo presenti su ogni marciapiede della città. Da non perdere una visita al Palazzo Reale, una crociera serale sul fiume con cena in barca. Il mercato galleggiante di Dam Ner Saduak, affollatissimo e coloratissimo. L'isola di Samui è un centro di meditazione buddista e ora anche il famoso centro turistico per le sue splendide spiagge. L'isola di Phuket. Atterriamo all'aeroporto internazionale ed in auto andiamo verso Patong. Il paesaggio cambia con palme e spiagge bianche. A Lam Sing il mare è verde smeraldo e c'è una caratteristica spiaggia attrezzata con pochi ombrelloni e 2 ristorantini, raggiungibile percorrendo una stradina ripidissima, ma ne vale la pena. Dopo un bagno rilassante si riparte e visitiamo una orchid farm dove i fiori sono indescrivibili, coloratissimi, di una bellezza unica. I paesaggi sulla costa sono sempre incantevoli, da cartolina. Quello che emoziona sono i colori del mare e tutto il verde che ci circonda. Visitiamo poi il tempio di Kalong e vale certamente la pena fermarsi nei vari Wat. Sono luoghi di una spiritualità indescrivibile. È un modo ben diverso dal nostro di credere nel divino. In Thai, la filosofia buddista è seguita praticamente da tutti. Addirittura i figli maschi dedicano qualche mese della propria vita a servire nei monasteri per onorare i genitori. Ci spostiamo poi al Prompter Cape, il promontorio dove tutti si recano a vedere i tramonti, per visitare i faraglioni rocciosi di Krabi ed il villaggio di pescatori su Palafitte. Attraversata la giungla per Phang Nga, molto emozionante, osservando quella tipica vegetazione. In Russia ci siamo recate su consiglio di papà, perché nel corso della Prima Guerra Mondiale, ancora ragazzo, vi aveva passato lunghi anni da prigioniero. Gli era rimasta un'impronta profonda di quel popolo diverso culturalmente, ma anche umano nel contatto. Dopo essersi cucito un vestito di sacco ed essersi liberato dei vestiti da prigioniero, era rientrato in patria dai genitori, facendo un lunghissimo e pericoloso viaggio, con pochi rubli e su mezzi di fortuna. Con mia sorella siamo partite da Milano con un aereo per Mosca. Arrivate all'aeroporto di Mosca e passato il controllo doganale, ci siamo trovate dinanzi ad un bel giovane, il quale, salutandoci garbatamente, ci chiamò per nome e ci accompagnò all'hotel. Da quel momento non ci lasciò più. Ci disse che ciò che desideravamo visitare dovevamo parteciparglielo, poiché durante la nostra settimana di permanenza era la nostra guida e guardia. Disse che da sole non avremmo potuto girare per Mosca. Questa giovane guardia si chiamava Yuri ed era veramente amorevole. Ad esempio, un giorno fuori dall'albergo vendevano i biglietti per il teatro Bolshoi con uno spettacolo di prestigio, lo Schiaccianoci, e Yuri ce li procurò. Avemmo un posto vicino al palco reale, e quello che mi ha colpito è stato il pubblico che al posto degli applausi gettava sul palco mazzi di fiori. Armenia. Yerevan, capitale dell'Armenia, fondata nel 782 avanti Cristo. In Armenia si usava il calendario lunare che dopo alcuni secoli venne sostituito con quello solare. A Yerevan abbiamo visitato Piazza della Repubblica, la statua della Madre Armenia, il Museo di Storia Nazionale, che offre una panoramica completa delle vestigia storiche del popolo armeno dal Paleolitico fino ai nostri giorni. Matena Daran, la grande biblioteca di manoscritti, dove si conservano circa 16.000 testi antichi e medievali e codici miniati, che mi è rimasta molto impressa. Abbiamo visitato anche la magnifica cattedrale di Echmiadzin, nella regione di Armavir, centro religioso del paese, e sede del Supremo Patriarca della Chiesa Apostolica Armena, costruita nel 301 d.C. Anche questa capitale mi è rimasta molto impressa. Come si suol dire, è un gradito dovere, è un piacere in realtà presentare le nuove produzioni di Alba, Alba Giampiccolo, o Chanty, io dico alla francese perché è forse più suggestivo, e direi che ecco, dopo varie esperienze che qui peraltro sono compresenti, perché è un libro, diciamo così, di viaggi, poi cercherò di dire meglio in che senso, ma avete sentito una poesia che l'attrice Maria Pia Zanetti ha letto, diciamo, come prodromo, come prologo ai testi. C'è nel volume, ci sono illustrazioni che o sono foto relative ai luoghi, oppure, e questo è più interessante, sono opere pittoriche che Alba ha dedicato ai luoghi, a determinati luoghi. Penso per esempio alla commovente rappresentazione che è nata dopo lo tsunami, mi sembra fosse 2004, no? Sì. Ecco, e altre opere che naturalmente ci danno un'idea molto forte proprio dell'esperienza del viaggio. Ecco, quello che si è cercato anche di rilevare sia nella prefazione della professoressa De Chiusolo e sia un po' in quello che ho scritto io, l'aspetto della viaggiatrice, non della turista. Ecco, cioè naturalmente insieme alla sorella Pia, Alba ha veramente vissuto il viaggio. Rileva la De Chiusole, secondo me molto giustamente, che naturalmente conta il telos, lo scopo del viaggio, ma conta soprattutto il viaggio in sé, che è un viaggio anche alla ricerca di sé, sempre, no? Quando noi viaggiamo e non facciamo gli usufruttuari, diciamo, di una condizione, di una situazione, qui ci sono anche intelligenti saggi, per esempio, sul turismo adeguato, o meglio, appunto, sul viaggiare intelligentemente. Adesso, per citare un testo che negli anni 90, o tra gli 80 e i 90, andava per la maggiore, temo non sia tradotto in italiano, von Krippendorf, per esempio, a livello di sociologia del viaggio e sociologia turistica, aveva scritto cose molto intelligenti, cui Alba si attiene. Non importa aver letto questi testi, ma importa come ci si comporta viaggiando, non dimostrare, diciamo, molti, e quelli sono i turisti nel senso peggiore, dimostrano un senso di superiorità rispetto ai posti che visitano, come dire: noi siamo più bravi, noi abbiamo capito tutto, voi invece no. Questo appunto non è, per fortuna, mai in Alba Giampiccolo, e è come se avesse tesaurizzato, diciamo, fatto proprio tutte quelle esperienze di cui dicevo, della sociologia del viaggio, della psicologia del viaggio. Si impara moltissimo appunto anche scoprendo se stessi, e questo è l'aspetto più importante. Un altro, si accennava e è già stato detto, rispetto al quasi all'endiadoi, cioè all'essere due in uno, l'endiadi, no, in italiano, rispetto alla sorella, e naturalmente pur nel grande dolore che ha comportato la perdita della sorella, in qualche modo, se mi è permessa una notazione psicologica, per fortuna Alba l'ha in qualche modo inglobata in sé, sì. La fatta propria, e questo è il modo anche per superare il dolore, no? Per in qualche modo andare al di là, perché altrimenti non si vivrebbe più, o comunque si vivrebbe molto male se ci fosse sempre quasi una spada di Damocle, o shakespearianamente nel Macbeth, no? L'ombra di Banquo, no? Che minaccia sempre Banquo, non il bancarottiere, ma il personaggio shakespeariano. Ecco, e allora lì naturalmente, ecco, questo è un atteggiamento importante. Dicevo, come il viaggio, e questo è importante, non sono dei Baedeker, non sono dei, era un grande viaggiatore e autore di testi dell'Ottocento fino, insomma, alla prima metà del Novecento, pare, poi un po' demodé, ormai viene ristampato, ma insomma non ha più grande appeal, diciamo. Erano dei consigli per visitare determinati luoghi, ma erano una sorta di monografie includenti anche sia i posti da visitare, soprattutto a livello artistico, a livello naturalistico e naturalmente storico-archeologico, ma anche quello che più modernamente può fare, io non me ne intendo, ma insomma una guida Michelin o queste cose qui, no? Questi o il Touring Club, no? In Italia. Ecco, per fortuna Alba si è tenuta ben al di fuori e al di sopra di questo, cioè dà le proprie impressioni con brevi note anche storiche importanti, sentirete anche nella seconda parte dei rilievi che fa, questo sì, però sono dei gouache, sono delle impressioni per cui appunto possiamo dire è un vivere soggettivamente il viaggio e vivere soggettivamente i luoghi che si visitano, che si, tra virgolette, perché il termine è un po' imbarazzante, si affronta, non si, con cui ci si confronta, diremmo meglio. Ecco. Questo quindi non guide, perché di guide ne trovate a bizzeffe su ogni luogo, no? Se vogliamo andare in Cina troviamo e non sono neanche dei saggi. Io ho portato qui, temo in italiano non ci sia, Théophile Gautier, che era un grande scrittore, drammaturgo e molte altre cose, romantico, era anche un teorico del romanticismo, ha scritto questo che poi insomma è l'Oriente relativamente, perché si parte dalla Grecia, che insomma è Oriente, ma fa parte costitutivamente dell'Europa, forse con qualche problemino, come è noto, no? Diciamo. Ecco, e questi sono dei saggi. Théophile Gautier faceva dei saggi sui luoghi, dei saggi storico-culturali, antropologici. Quelli di Alba sono dei frammenti. Sì. E secondo me, appunto, la scelta dei flash è molto intelligente ed è molto adeguata anche al nostro tempo, diciamo, di postmodernità o di postmodernismo, come diciamo, per cui le grandi narrazioni sono un po' in crisi, o comunque o non si ha il tempo o non si ha la costanza di affrontare queste grandi narrazioni, leggendo, intendo. E allora, ecco, per fortuna c'è qualcuno che scrive, come la signora Giampiccolo, scrive dei libri che invece ci danno in qualche modo esperienze, ci danno esperienze, ecco, esperienze proprie, cioè fatte proprie, ecco, questo carattere soggettivo e di gouache che io trovo decisamente originale, perché appunto, a parte il panorama che vi dicevo, che è quello poi per esempio dei grandi viaggi di scrittori, no? Dal 600 con Montaigne alla fine 700, inizio 800 con Goethe, no? Basti citare l'Italienische Reise, ma non solo, insomma, no? tutti i viaggi goethiani, e l'autore che citavo prima, Gautier, è anche lui in questa chiave, diciamo, se in Goethe è più la considerazione, anche spesso lo scatto polemico o le considerazioni sulla vita, in Gautier, che viene dopo, anche se non di moltissimo, diciamo le due generazioni dopo circa, le considerazioni vengono a essere più storico-culturali. All'epoca parlare di sociologia o di antropologia culturale è un pochino improprio, no? Se l'antropologia culturale inizia con Taylor, siamo dopo il 1870, qui siamo prima, no? Negli autori che citavo. Però ecco, esistono anche, trovate molte opere anche appunto soprattutto in questa biblioteca, opere che appunto si dilungano, no? Non so, De l'Amérique di Baudrillard, che è un pensatore, un sociologo quasi nostro contemporaneo, morto da poco, ecco, sono considerazioni direi filosofiche sull'America, sugli United States, ed è un'altra cosa, no? È un'altra cosa. E di questo poi forse non c'è moltissimo bisogno, a meno che non dobbiamo approfondire monograficamente un autore. Certe considerazioni ce le facciamo anche da noi, quindi naturalmente un libro come quello, un libro breve, no? Relativamente breve come quello di Alba, può essere un entrebillet, un biglietto d'ingresso, diciamo così, nei luoghi che visitiamo. Un biglietto d'ingresso nel senso economico del termine, ma un'utile introduzione, una praefatio, diciamo, ai luoghi visitati e da visitare. Quindi passerei alla... Sì, avrei piacere che mi dicesse qualcosa... della Siria, della Giordania, adesso, di Israele, adesso questi stati che sono così disastrati, che io invece ho visto tutto così bene, specialmente la Siria e la Giordania, io l'ho visitata proprio con la pace, e, insomma, adesso pensare quello che sento, e se ci penso mi viene proprio da rabbrividire, ecco, per cortesia, sì. Sì. Siria, altro itinerario nel maggio 1996. Damasco è la capitale della Siria. La sua città vecchia e pittoresca, pur realizzando in periferia dei quartieri residenziali, la grande moschea decorata con bellissimi mosaici. Prima sosta nella città di Aleppo, una delle più antiche città di quello stato. Si dice che il profeta Abramo abbia vissuto per un periodo nell'acropoli. Da visitare la cittadella, il Museo Nazionale. Ebla, una delle più rilevanti scoperte archeologiche. Homs, per visitare il Krak dei Cavalieri, gigantesco castello crociato alto più di 700 metri, la cui strategica posizione permetteva di controllare tutto ciò che accadeva nella valle. Palmira è un'oasi e prende il nome dai palmeti che la circondavano. È stata un centro carovaniero del deserto siriaco che venne soprannominata la sposa del deserto. Il periodo di maggior splendore fu tra il primo ed il terzo secolo d.C., grazie agli imperatori Traiano e Aureliano. Quest'ultimo allungò la via colonnata e costruì 5 templi. Ma la città lega la sua storia eroica soprattutto a Zenobia, la regina ribelle. Il governatore Odenato, suo marito, venne ucciso insieme al figlio e Zenobia ebbe l'ambizione di contrastare la dominazione romana. Conquistò la Siria e l'Egitto ed inviò i suoi guerrieri in Asia Minore, ma l'imperatore Aureliano reagì e, circondata la città, la assediò finché venne distrutta completamente. Zenobia venne catturata, si dice incatenata con catene d'oro, e rinchiusa in una gabbia che venne esposta nelle vie di Roma. Pare che Zenobia abbia concluso la sua vita in un'elegante villa a Tiberi. Adesso pensare che sì, è caduto tutto. Valeva la pena questo viaggio, era talmente interessante dal lato culturale che ci aveva proprio assorbito. Ecco, ma... Se mi passate il microfono, prima tanto i luoghi. Sì, questo viaggio della Siria e della Giordania ci aveva molto coinvolti, perché veramente c'erano tante cose da vedere culturalmente, ma in tanti campi. Adesso io, quando che ho sentito tutta questa rivoluzione, tutta questa guerra, io ho sofferto veramente, perché devono aver distrutto proprio tutto quello che è di storia, insomma. E questa è la Siria, e lì ci sarebbe tanto da... Ci sarebbe stato tanto da scrivere, ve lo dico subito. E adesso poi anche la Giordania, ecco, la sua Giordania. La Giordania. La signorina, sì, grazie. Amman, capitale del regno ascemita di Giordania, città moderna. La via dei re per il prezioso mosaico raffigurante la carta della Palestina. Monte Nebo, balcone naturale dal quale si può ammirare la valle del Giordano. L'oasi di Gerico, il deserto di Giuda. Petra. Sorge a forma di anfiteatro, racchiuso da alte rocce scoscese. I picchi che la circondano furono adibiti a tombe e ad abitazioni occupate dai pastori nomadi di origine semitica. Petra è un sito archeologico posto a 250 km a sud di Amman, in un bacino tra le montagne ad est della grande valle che parte dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Dal 1985 è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ed è una, o forse adesso è meglio dire era una delle 7 meraviglie moderne. Era. Sì, purtroppo fu uno svizzero, Johann Ludwig Burckhardt, che pazientemente raccolse presso i beduini il segreto dell'ubicazione di Petra. Questo anche mi ha colpito. Aqaba si trova nel nord del Mar Rosso ed è il porto principale della Giordania. È la tappa d'obbligo sul percorso delle carovane. La via dei re portava infatti dall'Egitto alla Siria attraverso la Giordania. La città è la seconda per importanza nello Stato e neanche l'unico sbocco sul mare. È stata conquistata da Thomas Edward Lawrence, noto anche come Lawrence d'Arabia, durante la Prima Guerra Mondiale, che cita nel suo romanzo La Valle della Luna, l'indimenticabile e splendida zona dove installò il suo comando durante le operazioni di guerra. È una zona formata da montagne sabbiose, con varie colorazioni, dal giallo al bianco, dal rosso al marrone, intervallate da profondi canyon, con archi e ponti naturali, nonché da pietre modellate come funghi, intagliate e plasmate naturalmente da anni di vento ed erosione. ci arrivavo in jeep attraversando l'affascinante deserto, un vero spettacolo al tramonto, nel gioco di luci ed ombre per cui tutto sembra prendere vita. Lì abbiamo cenato in una tenda beduina, allietati da danze folcloristiche. Ho voluto soffermarmi su questo importante viaggio culturale perché ora il paese, purtroppo, è turbato dalla guerra. Sì. E mi stanno dicendo che ci sono problemi di tempo, per cui non so se ci va bene. Se Eugen deve aggiungere finito. Qualcosa o altrimenti. Quando è da finire, sì. Finiamo. Posso. Ma poi ancora. Sì. Posso. Chiaro. E allora facciamo un salto negli Stati Uniti? Sì. Sì. Bisogna. Volevano farle un'intervista. Allora ecco. Per quello. Perché con i tempi del TG non sì, c'è stato. Sì, ma per me allora, va bene come. Aspettiamo, come... Per sì, me va bene. Okay. Va bene. Va bene. Okay. San Diego, Phoenix, Arizona, attraversando la foresta di Cleveland con la particolare cena in un ristorante locanda West. A proseguire verso nord lungo il viaggio, visita al castello di Montezuma, abitato 800 anni fa dagli indiani. Visita al Grand Canyon, sorvolato in elicottero, e proseguimento per il Nevada, famoso per il gioco d'azzardo. Mia sorella ha puntato una piccola cifra per provare l'emozione nuova e aveva vinto, perdendo poi tutto, rigiocando. Alloggiamo a Las Vegas con la tentazione di giocare ancora. Ma non abbiamo più. San Francisco, strade ripide percorse da vecchie cremagliere, la bellissima baia con il famoso ponte Golden Gate. A San Francisco l'escursione sul monte Tamapais, ricco di sequoie, e proseguiamo per un villaggio coloratissimo di pescatori ed artigiani. Monterey verso sud, la via per Santa Cruz, costeggiando la costa californiana con le sue scogliere. Piccola visita al villaggio di Carmel per dare uno sguardo ai negozi. Los Angeles, lungo la costa californiana, con sosta a Santa Barbara, stupendo posto con un clima che permette di praticare sport nautici tutto l'anno. New York, oppure The Big Apple, la grande mela. Bella città, grande vitalità e fascino. Il Central Park con Lincoln Center e la cattedrale dove si svolgeva un matrimonio, con gli sposi arrivati pomposamente in Rolls Royce. New York, città dalle grandi luci e grattacieli con Broadway, Harlem, trampolino di lancio per grandi jazzisti quali Duke Ellington. A Harlem si può ammirare la grande famosa cattedrale gotica St. John the Divine. E poi Times Square, Little Italy, la 50th Avenue, dove ci sono i negozi più sofisticati e famosi del mondo. La Madison Avenue, con negozietti deliziosi, e l'interessante Chinatown. Da visitare il Museo Moro, Wall Street, la Statua della Libertà. Washington, per visitare il grande museo, dove in mostra ci sono quadri di notissimi autori, alcuni dei quali, prima della guerra, erano esposti in musei italiani. I monumenti nazionali, Jefferson Memorial, Lincoln Memorial, il pittoresco quartiere Georgetown ed il monumento a Washington. Non poteva mancare la crociera turistica sull'Hudson e l'East River con l'autobus. Da New York per Buffalo, quindi le cascate del Niagara, fra Stati Uniti e Canada. Grazie. Diciamo, io trovo anche particolarmente intelligente, proprio anche nel senso letterale del termine, l'intelligere, la scelta di non parlare molto di paesi europei, parlo anche per esempio dell'est europeo, di concentrarsi, pur se ci sono delle notazioni sugli altri paesi europei, ma diciamo l'Europa fatalmente è più vicina e più nota, e invece appunto ci si concentra sull'America, attenzione, America, le Americhe diremmo meglio, gli States e l'America Latina, c'è una parte notevole su Cuba, per esempio, che è, se vogliamo, anche il contraltare a livello economico, a livello politico, ovviamente, rispetto agli States. E poi tutta la parte sull'Asia, noi abbiamo sentito alcuni luoghi, alcuni paesi, con particolare accentuazione appunto della realtà siriana, della realtà giordana, e c'è anche poi molto su Israele, con naturalmente quanto Alba ora faceva giustamente osservare, la situazione catastrofica in cui certi paesi si trovano oggi, inutile che ripeta, in Siria, ecco, soprattutto. Ora, la realtà siriana, per esempio, è una realtà diversissima, non vorrei qui fare, non fraintendetemi, non è una questione etnico-razziale, ma è una questione proprio culturale, linguistica. Sono paesi che non sono arabi, Siria e anche Iran, no? Con tutti i problemi che anche un po' meno l'Iran attualmente ha. Si è parlato della realtà armena, anche questa è una realtà assolutamente importante, spesso molto trascurata, purtroppo il primo etnocidio è stato in Armenia, prima, molto prima di quello nazista, no? Ecco, e purtroppo è stato condiviso sia dall'impero ottomano sia poi dalla nascente Repubblica Turca con Atatürk, che purtroppo non ha fatto di meglio, ha fatto dell'imperialismo repubblicano e laico, se è consentito dire. E un'altra cosa, ecco, giustamente, e dal suo punto di vista, Alba, e qui io mi dissocio abbastanza, ha il nostos, cioè ha la voglia del ritorno, no? Voi sapete, nostalgia, nostalgia, il famoso in russo, derivano appunto da questa volontà di fare ritorno nella terra d'origine. Io dico la verità, soprattutto se intendiamo, mi scuso, la vostra città, la mia città, insomma, diciamo, la voglia di tornarsi è sempre più affievolita per diversi motivi che non interessano qui, ma insomma, però il, attenzione, questo è vero anche psicologicamente, nel viaggio, quando si è altrove, non dico in un altrove, ma altrove, c'è la fatale volontà di confrontare le proprie abitudini, non so, le forme di spiritualità, ma anche le cose più materiali, il cibo, eccetera, i vestiti, quello che volete, con la realtà da cui si proviene. Questo è fatale in tutti noi, al di là del conoscenza storico-antropologica che noi possiamo avere, però c'è sempre l'elemento dello stacco, no? Per cui appunto paragoniamo una realtà diversa, e anche qui naturalmente, la realtà cinese, per fare un esempio, la realtà dell'India è evidentemente più lontana dalla nostra di quanto non sia, per esempio, la realtà faccio un caso della Grecia o anche di Israele, che è un paese che ha delle forti analogie con le realtà europee, diverse tra loro, però anche in qualche modo affini, no? E quindi il problema si pone sempre, c'è quasi una dialettica, se è permesso usare questa espressione, tra diciamo quello che noi vediamo altrove, in altri luoghi, e naturalmente quanto noi abbiamo esperito vivendo in una certa realtà. Ovvio, chi per esempio emigra e quindi si trasferisce per sempre o per quasi sempre in un altro luogo, per lavoro, per altro, ma insomma, ecco, gli emigrati attuali, nessuno si trasferisce per sport, diciamo, per pura volontà turistica, in genere per questioni economiche, per lavoro, che poi è più o meno lo stesso. Ecco. E anche il loro atteggiamento iniziale, ma anche poi successivo, è dire: però da noi, non so, le abitudini, appunto, a livello di cultura antropologicamente intesa, non so, c'è tutto un rituale, non solo, attenzione, in paesi come quelli citati prima, la Cina, l'India, no? Voi sapete che, per esempio, per rappresentare il lutto, l'esperienza luttuosa, in Asia non si usa il nero, in Asia e credo anche in Africa, ma non ho esperienza, ecco, è il bianco il colore luttuoso, no? Però ecco, se andiamo a vedere realtà più vicine alla nostra, profondamente impregnate di cultura europea, seppure di cultura ispanica, per esempio in Latino America, c'è tutta una celebrazione che non è solo religiosa, è anche laica, e comunque i due livelli poi si compenetrano, per accompagnare la persona cara scomparsa. Quindi le ritualità che si riferiscono ai momenti forti della vita, no? Proprio antropologicamente intesa, quindi non so, la nascita, il battesimo, ma insomma in altre culture poi si esprime diversamente, o non so, il matrimonio o altre cose, ecco, o l'entrare in un ordine, ecco, tutto questo è diverso, no? È diverso, e interessanti sono proprio i raffronti che inevitabilmente noi facciamo. Perché che noi ci spostiamo o che altri si spostino visitando le nostre realtà, qual è la prima considerazione? Da noi però è diverso. Qui c'è un qualcosa che, ecco, e quindi anche la volontà di conoscere realtà, altre realtà diverse. Mi aggancio a quello che ha detto il professor Galasso, che è sempre un'occasione, ascoltarlo è sempre un'occasione per avere delle informazioni, un excursus di tante cose, ecco, spazia veramente per tanti campi, è un piacere ascoltarlo. Io volevo portare un po' a conclusione la serata per tanti motivi, perché c'è anche un'occasione di avere un'intervista con la televisione, e penso che Alba Giampiccolo sia il caso che porti la propria testimonianza. Quindi lascerei un attimo questi minuti di tempo, ecco. Abbiamo sentito le letture, abbiamo avuto appunto queste emozionanti descrizioni veloci di tutti i viaggi, o comunque di alcuni dei numerosi viaggi che sono stati fatti, e queste brevi descrizioni sono comunque molto sintetiche e danno anche l'idea di come sia stata attenta nei suoi viaggi, di come non le sia sfuggito nulla, insomma, le cose importanti le ha fissate e le sono rimaste. Spero. ci sembra di vederle, insomma, sì, nelle descrizioni, sì, quello che lei, sì, ha provato. Ecco, a vincere. Questo è importante. Sì. Che io la ringrazio. Ecco, ringrazio a tutti voi di essere qua, benvenuti e buona serata.